Tempo di Sport di Gigi Garanzini. Nessun dubbio che l'argomento del giorno sia oggi Balotelli. Basta scorrere i giornali. Nelle vesti di giocatore stavolta, direi anche finalmente. E che giocatore, potenziale uomo nuovo dell'attacco della nazionale, se non fosse che Lippi, come ieri vi avevo preannunciato, avendo scorso le prime risultanze della conferenza stampa ad esordio del commissario tecnico per questa vigilia di Italia-Camerun, se non fosse che Lippi lo ha bocciato per immaturità. Sentiamo. Balotelli, noi tutti speriamo che sia determinante nella partita di mercoledì con l'Under 21, perché purtroppo la situazione dell'Under 21, nonostante abbia disposto di giocatori importanti, appunto fra i quali anche Balotelli, non è decollata tantissimo, e speriamo che mercoledì faccia la differenza come tutti ci aspettiamo, perché la squadra di Casiraghi possa battere l'Ungheria e ritornare a sperare nella qualificazione. E poi, per quanto riguarda Balotelli, ribadisco le cose che ho sempre detto. All'Inter stanno facendo un percorso molto importante per far maturare questo ragazzo, questo giovane, e non c'è dubbio che quando sarà terminato questo percorso, che tanto abilmente stanno portando avanti, il giocatore possiede delle qualità che saranno sicuramente utili prima all'Inter in maniera più totale, più definitiva, e poi anche alla nazionale. Breaking news. E c'è un aggiornamento che riguarda la vicenda delle liste per le prossime elezioni regionali. Secondo il sito repubblica.it, anche la lista della Polverini, candidata del centrodestra alle regionali in Lazio, il suo listino sarebbe stato bloccato dalla magistratura. Per il momento non si hanno altre notizie, e gli aggiornamenti nella prossima edizione di GR24. Torniamo in onda. Le parole di Lippi le avete sentite. Scrive Mario Sconcerti a commento di queste parole sul Corriere di stamani. In realtà Lippi ha già fatto le sue scelte e le difende dalle mode del campionato. Una cosa però è fare una scelta, altro è difenderla dando dell'immaturo agli esclusi. Poi dopo un lungo ragionamento tecnico-tattico, Sconcerti scrive queste righe che io trovo molto interessanti. Ma in un mondiale dove non vince chi gioca meglio, ma chi sa usare meglio gli episodi, chi sa costruirne di più e di diversi, Balotelli è l'ideale. Non deve essere il primo attaccante, deve essere il quinto o il sesto. Deve giocare esattamente quando serve la sua immaturità, il suo senso di disorientamento, cioè la sua classe. È strano che Lippi non se ne accorga. A volte sembra diventato più realista del re, e qui non credo che Sconcerti alluda, come ho fatto invece io sul Sole citandolo direttamente, Emanuele Filiberto. A volte sembra diventato più realista del re, continua Sconcerti, come cercasse più una correttezza di scelta che un reale vantaggio tecnico. Balotelli, infine, non è Cassano. È un ragazzo di nemmeno 20 anni, introverso e ombroso, che si sente attaccato dal mondo, non un artista arrogante che non ha voglia di rispettarlo. Il gruppo è sovrano, ma nel gruppo deve esserci spazio per le differenze, altrimenti diventa una lobby. Duretto, direi a occhio e croce. Su Repubblica Maurizio Crosetti la prende da un altro punto di vista, più generale, e dice: ma in Italia quanto deve invecchiare un giovane, e non solo nello sport, per contare qualcosa? Quanta freschezza, quanta energia, quanta speranza, quanta sfrontatezza deve perdere perché qualcuno decida finalmente di puntare su di lui? Quanto deve intristirsi? E conclude, dopo proseguendo il ragionamento: però che gratitudine è mai quella di dare l'occasione sempre ai soliti, anche quando sono brasati? La nostra nazionale di calcio sarà la più vecchia dei mondiali, è piena di bende e cerotti, il suo capitano pare il nonno di quello che alzò la coppa a Berlino, eppure fonti attendibili assicurano si tratti della stessa persona. Poi magari i cigni azzeccano il concerto con un ultimo glorioso canto prima di stramazzare, ma c'è proprio bisogno di vederli stecchiti per dire largo ai giovani? E infine l'ultima lettura che vi propongo è il colloquio con Enzo Bearzot pubblicato stamane da Alberto Cerruti sulla Gazzetta. Cerruti chiede: Bearzot, lei convocherebbe Balotelli? E la risposta ovvia del vecchio è: io chiedevo rispetto per le mie scelte e per coerenza rispetto a quelle degli altri, perché so cosa si prova in quel ruolo. Ma come giocatore le piace, incalza Cerruti. Balotelli ha una potenza straordinaria, un fisico eccezionale e non ha paura di niente, come se avesse una corazza che lo isola da tutti o da tutto. Cerruti: sembra l'identikit di uno che lei avrebbe convocato subito. Io ragiono con la mia testa, Lippi con la sua. Posso solo dire quello che avrei fatto io, ma senza fare pressioni di lui, perché non sono il tipo. Lo avrei chiamato per qualche amichevole, non per vedere come gioca, ma per capire se poteva inserirsi nel gruppo, perché non basta essere bravi in campo, bisogna andare d'accordo con tutti, anche fuori. Ultima domanda, no, sono altre, sono tante, ma insomma l'ultima che cito è: la sua presenza in nazionale potrebbe aiutare a combattere il razzismo? Sicuramente, risponde Berzot, perché Balotelli è italianissimo e la sua massima ambizione è quella di giocare in nazionale. Ne riparliamo insieme più tardi, ascoltando le vostre opinioni. Adesso l'appuntamento internazionale del martedì con il ministro Fabio Tavelli. Buongiorno Fabio. Grazie Gigi, buongiorno a tutti. Dunque c'è grande equilibrio ovunque, mi pare, in Europa, dove nei campionati d'Europa, dove non c'era si è ricreato, come anche se poi in Francia forse è solo apparente, adesso ne parliamo. Da che parte vuoi cominciare, per un fine settimana che è stato ricco di spunti? Ma guarda, mi pare che la riflessione che hai fatto tu sia corretta, anche perché la lettura delle classifiche è davvero molto facile e molto immediata, nel senso che non ci sono più di 2-3 punti sempre tra la prima e la seconda, e questo significa, ovviamente parliamo di campionato italiano, tedesco, francese, spagnolo e inglese, questo significa che la volata sarà una volata ravvicinata, cioè le fughe iniziate in vari campionati, a volte con una sorta di elastico, in Italia l'Inter ha sempre mantenuto un certo tipo di vantaggio, il grande recupero del Bayern di Monaco in Germania, comunque l'equilibrio che c'è al vertice del campionato francese, che è un campionato, ripeto, dei cinque, certamente il campionato minore dal punto di vista dell'interesse, però trattasi comunque di un campionato che poi esprime anche dei valori interessanti. Per quanto riguarda la Spagna, ovviamente la sfida è tra Barcellona e Real Madrid, in questo caso diventa magari anche più interessante vedere sempre i distacchi tra le squadre in corsa e quelle non in corsa, e quindi qui vediamo che Barcellona e Real Madrid sono andate via ormai da tanto tempo, e Siviglia e Valencia si alternano al terzo e al quarto posto, ma di fatto non sono mai state competitive. Però se pensiamo alla Francia, che per tanti anni è stato semplicemente il campionato del Lione, in questo momento tra la prima e la sesta ci sono 6 punti, che sono due partite, quindi questo vuol dire che l'Auxerre, che è sesto, potrebbe teoricamente essere ancora in corsa con il Bordeaux. Per quanto riguarda il campionato inglese, è ovvio che la sfida sarà a due, con qualche possibilità dell'Arsenal eventuale di inserirsi, ma ne dubito. Magari in Inghilterra è più interessante la sfida per il quarto posto, perché vede il Liverpool, il Tottenham e il Manchester City rilanciato dalla vittoria Stamford Bridge per un posto che è vitale in un campionato che esprime grandi valori, ma in questo momento soprattutto grandi debiti e un sacco di difficoltà per molte società. E poi naturalmente c'è la Germania con il Bayern di Monaco, che dopo tanto inseguire è riuscito finalmente ha rimesso la freccia. Prima aveva messo la freccia a sinistra, era stato fuori parecchio per il sorpasso, adesso ha rimesso la freccia a destra e si è rimesso in testa, e credo che da lì non lo toglierà più nessuno. Direi che Lippi in qualità di campione del mondo è inattaccabile, scrive Andrea. Per fortuna l'Italia, Cabrini e Paolo Rossi non avevano Lippi come CT, risponde un altro ascoltatore. Siete in molti a pensarla a pensarla in maniera molto diversa, anzi a pensarla in maniera opposta, ma insomma a intervenire sull'argomento. Io farei intervenire anche Fabio. Apriamo sta piccola parentesi. Stai con Lippi o con Barabba? Ma io sto con Balotelli a prescindere, nel senso che trovo che un giocatore come Balotelli debba avere la possibilità di esprimersi sempre, anche con qualche momento nel cui, parlo solo di calcio naturalmente, con qualche momento nel quale anche lui tende a estraniarsi, ma ci sarebbe da stupirsi se fosse già perfetto. Quindi io Balotelli lo convocherei sempre e comunque, a maggior ragione in un torneo corto nel quale puoi davvero fare la scheggia impazzita, in una squadra abbastanza vecchia lui potrebbe essere davvero il volano vincente. Capisco le motivazioni di Marcello Lippi, però, nel senso che Marcello Lippi con grande coerenza va avanti per una strada che lo ha portato a vincere un mondiale con una squadra oggettivamente, da un punto di vista qualitativo, non tra le prime 3-4 squadre del mondiale, di Germania 2006. Oggi, se scorriamo le rose, credo che questa squadra sia anche sotto, io trovo che ci siano almeno 5 squadre ben più dotate da un punto di vista qualitativo della nazionale, ma l'esperienza proprio di Germania 2006 insegna che basta azzeccare 20 giorni nei quali accade davvero di trovare un portiere che para tutto, un paio di difensori centrali che respingono tutto e fanno pure gol, e allora tu puoi vincere il mondiale. Sì, rimane il fatto, adesso stiamo parlando d'altro, rimane il fatto che ti può capitare una volta in un secolo forse di vincere il mondiale con capocannonieri Grosso e Materazzi, no? Qualcuno che la buttasse dentro era già gradito allora, dato che nel frattempo non ne sono saltati fuori, comunque non da protagonisti con questa perentorietà e nello stesso tempo non da trattare eventualmente anche come ragazzo, come ragazzi spazzolo, come dice Sconcerti, no? da quinto o sesto attaccante, ma che se un giorno devi cambiare la partita, so, la cambiata a Udine, la cambiata col Chelsea in campo internazionale, un pensierino. Io penso soprattutto quest'ultima cosa che tu hai detto, cioè mentre ci sono i giocatori che la Champions League la guardano in televisione, certo, come facciamo noi, perché sono di categoria, questo, esatto, ci questo, sono i giocatori che la Champions League la fanno dal campo, e questo con tutto rispetto per Sirigu, per Kossu, per Bocchetti, ma per carità, cioè, ma ci per mancherebbe Pepe, altro. Per però questi, leggi anche, Sirigu, anche di Natale, che è un giocatore importante, e Natale chapeau, anche un grandissimo giocatore, però la sua esperienza internazionale è certamente inferiore. Io credo anche che una valutazione complessiva vada fatta anche sui prossimi 2-3 mesi, soprattutto i mesi di marzo e aprile. Quanti giocatori della nazionale che tutti noi pensiamo Lippi schiererà avranno molti impegni europei nei prossimi 2 mesi? Una volta risposta a questa domanda, domandiamoci se saranno loro i giocatori idonei. Cioè, io credo che farsi un paio di mesi a grande livello, con grande tensione, ti possa stancare, ma ti possa dare anche qualcosa in più nei momenti decisivi. Bene. E quindi, comunque, insomma, la risposta è io lo porto. Fabio, che sta succedendo al Chelsea? O meglio, a parte il fatto che gioca a porta libera, non avendo Cech, ma che sta succedendo di altro? Ma sta succedendo, teniamo conto che Cech non è più stato il Cech pre-infortunio, quindi non... Cech ha avuto dei problemi, però comunque rimarrebbe un portiere molto affidabile. Devo dirti che Ilario, con qualche con qualche eccezione, non era apparso un portiere totalmente sprovveduto, cioè ce ne sono di peggiori nel campionato inglese e ce ne sono parecchi nel campionato inglese che non ha molto senso vederli in campo. In ogni caso, quello che Ilario ha fatto contro il Manchester City autorizza l'Inter a grandi speranze, perché insomma trattasi di un portiere in questo momento in difficoltà. Credo anche che sia spaventosamente calato davanti a lui John Terry, che non ha nelle ultime partite legittimato quello che è il suo grande valore nazionale ma anche internazionale. Penso che il Chelsea abbia una panchina abbastanza modesta rispetto alla caratura complessiva che Ancelotti può schierare nei primi 11, e quando Ancelotti ha dovuto andare a pescare abbondantemente dalla panchina, ecco che si è visto come il Chelsea in questo momento non sia una squadra con la panchina lunga, e quindi quando ti viene a mancare una dorsale che è formata da un giocatore come Essien, che è una vera diga nella linea di mediana, e quando il tuo centrale migliore John Terry ha qualche difficoltà, e quando il tuo portiere titolare si infortuna e ne gioca un altro che in questo momento ha le gambe un po' che gli tremano, ti manca, il gol ti manca 1-1 di Tevez sfiora il ridicolo, e allora ti spieghi anche qualche gol. Certo, ti manca la spina dorsale arretrata, sì, insomma, la parte alta della spina dorsale della squadra. Qualcuno di questi le recupererà per l'Inter, credo, no? O comunque sì, il portiere no, ma su Essien mi pare abbiano speranze. Sì, è anche vero che però Essien è un lungo degente, cioè fuori da tantissimo tempo, anche l'assenza di Ashley Cole è un'assenza pesante. Teniamo anche conto che Riccardo Carvalho non è più giovanissimo, quindi da quelle parti lì Ancelotti sa che deve pagare. Ancelotti deve avere una partita perfetta da parte della difesa, nel senso che la difesa non deve sbagliare niente, cioè non deve regalare niente. Poi se i giocatori dell'Inter saranno bravi segneranno per meriti loro, però credo che Ancelotti chieda soprattutto alla difesa di non regalare. E poi di tenere la palla il più possibile. Il Chelsea a San Siro ha dimostrato di poter tenere la palla per molto tempo. Più il Chelsea la terrà e meno l'Inter avrà la possibilità di offendere. E quindi certo, mi aspetto da questo punto di vista che Ancelotti chieda una grande pressione e un grande lavoro dei portatori di palla. Toccherà comunque al Milan cominciare con la sfida inglese. Si è ripreso un pochino il Manchester United, che ha comunque portato a casa un trofeo. Manchester che dipende sempre più, mi pare, da Rooney, no? Sì, sì, sì. E però volevo andare su un altro argomento, che è questo ennesimo gravissimo incidente capitato sabato nel campionato inglese, che ha colpito stavolta un talento giovanissimo come Ramsey dell'Arsenal, con un'altra doppia frattura di tibia e perone. Ora, Franco Piantanida stamane si è, no, non divertito, tutt'altro, perché non sono cose divertenti queste, ma insomma si è esibito nella ricerca di quanti incidenti gravi di questo genere sono stati negli ultimi anni. Allora, 2010, cioè adesso Ramsey. 2008, sempre dell'Arsenal, Eduardo, anche lì, doppia frattura di tibia e perone. Dyer, West Ham, 2007, doppia frattura tibia e perone. Cech, era un altro tipo di incidente, comunque una ginocchiata che ha rischiato la pelle. Abu Dhabi, Arsenal, 2006, caviglia distrutta da un tackle, è tornato, ha giocato dopo tre operazioni. Sissé, Liverpool, 2004, doppia frattura tibia e perone. Alan Smith, gamba e caviglia non scivolata per opporsi a un tiro, ma in quel caso non c'era stato tackle. Altri tre, Ashton, Nilis e Alan, non hanno più giocato, e parliamo sempre degli anni 2000. Allora, noi continuiamo a dire che in Inghilterra si gioca bene, si gioca maschio, si fischia poco, ogni tanto però si esagera anche. Sì, si esagera perché il numero è impressionante. Ashton, come dicevi tu, è un giocatore che poteva avere anche un discreto presente oltre che un ottimo futuro, e ha smesso di giocare molto, molto presto. L'infortunio di Ramsey è abbastanza simile a quello di Eduardo, ed è un qualcosa che per chiunque, ma non solo per chi ha giocato a pallone, per chiunque dà i brividi solo a vederlo, cioè vedere la gamba completamente spezzata. Sì. La fortuna di Ramsey è che è molto giovane, Eduardo è riuscito a ritornare. Non sapremo mai, non riusciremo mai a capire, a sapere se la carriera di Eduardo potesse prendere una piega diversa, così come non lo sapremo di Ramsey. Io mi ricordo un ragazzo molto giovane del Torino chiamato Alvise Zago, che ebbe un infortunio del genere, credo a Marassi contro la Sampdoria. Contro uno scontro con Victor. Ecco, e non riuscì più a diventare un giocatore come si pensava potesse fare. Io, certo, mi auguro che questo non accada naturalmente ad Aaron Ramsey. Oggi Wenger ha detto: vinceremo la Premier per lui. Io penso che l'esperienza di Eduardo in questo caso gli possa servire, perché ce l'ha pure in squadra, e quindi Eduardo gli potrà raccontare come se ne esce. Poi, ripeto, Ramsey è molto molto giovane, però essendo molto molto giovane si potrebbe anche scoraggiare o spaventare. In Inghilterra si gioca bene a certi livelli, a livello medio non si gioca sempre bene. A livello medio ci sono dei difensori che entrano e se prendono la palla bene, se non la prendono va bene lo stesso, nel senso che in Inghilterra spesso ci si entusiasma anche per un calcio d'angolo. Come no? E quindi va fatta la tara anche a questo. C'è molta più fisicità, ma basta vedere la taglia, la pezzatura dei giocatori. La pezzatura. È vero. Cioè, è così. Insomma, sono giocatori che la buttano soprattutto. Non tutti, si capisce, ma noi siamo molto più abituati a vederli in Champions League, e lì diciamo che è la loro vetrina migliore. Ma quando vedi le partite del Burnley, dello Stoke City, dell'Hull City, piuttosto che del Portsmouth o del Bolton, poi così sì, vedi no, anche i bulloni che sì, che perché non si fermano mai, non rallentano nemmeno mai, no. Non c'è mai la percezione di no, ma ti aiuta in questo, Gigi, un po' tutto, anche la vicinanza del campo, sì, secondo sì. me l'incitamento forte del sì, tifoso sì. che nel tackle si entusiasma, gasa anche te difensore. Certo. E poi sai anche che gli arbitri sostanzialmente sono meno, non dico meno attenti perché le vedono anche loro, però diciamo che tendono a lasciare, tranne casi eclatanti, tendono a far sì che la fisicità possa essere comunque espressa. Certo. Quando si esprime un po' troppo poi ci sono i danni. Comunque non c'è dubbio che sette fratture o doppie fratture di tibie o di perone di caviglia nel giro di 5-6 anni in un calcio professionistico come quello di oggi sono oggettivamente un po' troppe. Grazie Fabio. A voi, buona giornata. Chiudiamo il collegamento con Sky Sport 24. Scrive Massimo Caponi: se Lippi al mondiale porta Mauri, cambio nazionalità e divento spagnolo. Caro Massimo, poi le leggo nella seconda parte quale sarà il premio vittoria mondiale per la Spagna, sempre nel caso che ce la dovessero fare, ma lo hanno stanziato proprio stamattina e ha superato anche quello già fissato dai brasiliani e dagli inglesi. Secondo quanto pubblicato oggi dal Mondo Deportivo, in caso di vittoria ai mondiali a ciascuno dei 23 giocatori della Spagna andrebbero 550.000 euro, più del doppio rispetto agli europei che la Spagna vinse nel 2008. Il premio allora fu di 250.000 euro a giocatore. L'Inghilterra ha promesso un premio, sono cifre ovviamente non ufficiali ma insomma attendibili, l'Inghilterra ha promesso un premio a ciascuno dei suoi di 450.000 euro in caso di vittoria mondiale, 300.000 euro il premio per i brasiliani e 550.000 per la Spagna. Fa notare però questa agenzia che questi premi spariscono rispetto alla potenziale doppietta Liga e Champions League per il Real Madrid, che frutterebbe a ciascuna delle merengues la bellezza di 950.000 euro. Massimo da Milano, buongiorno. Sì, buongiorno Garanzini, caso Ballotelli. Non credo che Lippi abbia l'effetto di salame sugli occhi, sinceramente. Non mi torna tanto sta storia che non ne vuole proprio sentire parlare di questo giocatore. Secondo me è un filino razzista, lei come la pensa? No, non lo penso. Guardi, c'è anche un ascoltatore che ha scritto da Varese e sostiene la sua stessa tesi e dice che addirittura secondo lui non solo Lippi è razzista, potrebbe essere razzista, ma in ogni caso non vuol dispiacere alla fetta razzista della tifoseria juventina con cui gli dovrà fare i conti il prossimo anno. Oddio, spesse volte a pensar male ci si indovina. Io non credo e soprattutto non spero che sia questo il caso. Mi colpisce di più che questo ascoltatore di Varese, che si firma correttamente con nome e cognome, mi chieda di non citare né il nome e tanto meno il cognome per evitargli grane sul posto di lavoro, e questo già dà un'idea grosso modo, no, del paese che stiamo abitando. Piero, provincia di Lucca, buongiorno. Buongiorno signor Garanzini. Dica. Volevo parlarle a favore di Balotelli, del caso Balotelli. Non capisco perché il nostro CT di Marcello Lippi non voglia convocarlo in nazionale, non riesco proprio a capire questo. Cioè, non l'ha neanche chiamato per un amichevole, per provare la sua compatibilità con il gruppo, va bene il carattere, va bene tutto, ma cioè, è vero che il signor Lippi è abbastanza ottuso nelle sue scelte, diciamo che quando decide di chiudere con un giocatore, vediamo il caso Panucci, vediamo il caso Cassano, è molto... cioè molto deciso su questo, ma Balotelli non penso che, cioè Balotelli non gli ha assolutamente fatto niente di male. Io penso questo che sia un giocatore che farebbe molto comodo alla nostra nazionale, soprattutto questo... un attacco. Questo lo pensa lei, lo penso io, lo pensiamo in tanti, mi pare di capire che sia la maggioranza a pensarlo, lo pensa un signore che si chiama Enzo Bearzot. Lippi evidentemente la pensa in maniera diversa. Io non credo che sia tanto una bocciatura tecnica, perché sennò secondo me ci sarebbe abbastanza da preoccuparsi. Penso sia una bocciatura ambientale. È evidente che insomma, lo si vede poi in campo, perché non dimentichiamo che Balotelli è Jekyll e Hyde, no? Non dimentichiamocelo questo. Adesso ha giocato due grandi partite, una più bella dell'altra. Nonostante questo, qualche atteggiamento, diciamo come minimo infantile, l'ha avuto ancora, probabilmente continuerà ad averlo, e quindi insomma, di questo un commissario tecnico certamente deve tenere conto. I comportamenti sono molto importanti, lo sono sempre stati in maniera particolare per Lippi. Io ricordo il lavoro preventivo che fece prima di Germania 2006 per cercare di raffinare l'educazione che non esisteva veramente allora da parte della nostra squadra. Parlo di educazione sul campo, tant'è vero che in tutto quel mondiale ci fu la sbroccata di De Rossi contro gli Stati Uniti, ma per il resto il comportamento fu assolutamente ineccepibile da un punto di vista disciplinare. Può darsi che questo sia un parametro, anzi credo proprio un parametro che Lippi tiene ben presente. Questo non toglie che un tentativo o due di portarlo lì e di vedere come convive, secondo me non sarebbe, cioè, sarebbe stato giusto, perché mi sembra per l'appunto che le potenzialità di Balotelli siano altissime. Valentino ha chiamato da Bologna, buongiorno. Buongiorno signor Garanzini. Una considerazione: la domenica sportiva, domenica sera, non ha detto una parola sull'incontro Genoa-Bologna finito 3-4. Proprio non l'hanno neanche preso in considerazione. Hanno parlato di tutto, di Balotelli, hanno fatto il solito cabaret, ma niente, era una partita. Beh, mi sembra strano, toccava, cioè, mi scusi, Valentino, non hanno mandato in onda il filmato di Genoa-Bologna? Non è andato in onda, non è andato proprio in onda il servizio, se lo sono dimenticati a favore del Tombolini Quiz. Ma mi sembra se lei me lo racconta ci sarà il suo perché. Mi sembra molto strano, tra l'altro, una partita con 7 gol, una partita vinta, rimontata 3 volte dal Bologna e poi addirittura vinta nel finale, cioè ricca così di emozioni, di tensione, di pathos e cose. Mi sembra strano, mi sembra evidentemente un'amnesia di Scaletta, non certamente una scelta, semmai un infortunio del tutto involontario, credo, da come posso ricostruirlo. Non so che dire. Domenico, provincia di Bari, buongiorno. Buongiorno signor Garanzini, due domande per lei. Secondo lei, se Balotelli faceva parte della Juventus, l'avrebbe chiamato Lippi? E poi un'altra cosa, secondo me Lippi sta perdendo un treno molto importante non convocando Balotelli, a riguardo il razzismo, cercando quantomeno di combatterlo un poco. Grazie e l'ascolto per radio. Sulla seconda sono completamente d'accordo con lei. Io credo, ecco, facciamo un discorso un po' impegnativo. Io credo che una federazione debba e un commissario tecnico debbano stare ciascuno al proprio posto, e cioè la federazione occuparsi di politica federale, oltre che ovviamente avere comportamenti dirigenziali nei confronti della nazionale, che è la sua squadra, questo da una parte, e il commissario tecnico debba preoccuparsi, lo dice la parola stessa, delle scelte tecniche e della gestione della squadra. Credo però che ci siano dei momenti particolari in cui una affettuosa pressione potrebbe avere un significato. Questo, a parer mio, sarebbe uno di quei momenti. Momento in cui la federazione potrebbe dire a Lippi, indipendentemente dai rapporti attuali che mi sembrano siano al loro stramassimo e che comunque si è già capito che sono destinati a interrompersi per libera scelta del CT e non certo, o meglio, per libera scelta iniziale del CT, che poi forse adesso non sarebbe più così convinto, ma insomma, più o meno la storia la sappiamo. Io credo che questo sarebbe uno di quei momenti in cui se la federazione dovesse dire al commissario tecnico: ovviamente le convocazioni le fai tu, ma nel caso avessi un dubbio e un'incertezza, sappi che un nero italiano in nazionale in questo momento sarebbe un messaggio a chi, io credo che la federazione farebbe la sua parte in questo momento. Stefano Pavia, buongiorno. Buongiorno. Una considerazione e una domanda per lei. La considerazione è questa: io tifo moderatamente l'Inter, vedo spesso le partite, vedo giocare Balotelli, ecco, mi pare che per lui, in ottica interessi dell'Inter attuali e futuri, non credo che sia una buona cosa che Balotelli vada in nazionale. Un po' perché difficilmente si asterrà da quegli atteggiamenti che ogni tanto tiene, quella spocchia o presunzione che sia, che trasuda molti dei suoi comportamenti, e che finché li fa nell'Inter, trova intorno a sé una parte di consenso nei tifosi, lo scherno degli altri, ma tutto sommato rimane in una dialettica di questo tipo. Se li fa in nazionale diventa bersaglio di giornali, di un'amplia, direi, il raggio. Beh, Stefano, mi lasci dire che più bersaglio di così è difficile comunque, se parliamo di atteggiamenti. Quello è vero, però temo che la nazionale non li faccia bene. Ecco, o forse mi potrei sbagliare, potrebbe invece creare intorno a lui un cuscinetto di affetti se dovesse, certo, risolvere una partita o altra, e farlo magari maturare. Questo è un po' il dubbio che ho in questo momento. La domanda invece che le faccio così in flash al volo è: cosa pensa di questa improvvisa illuminazione dei nostri arbitri? E mi riferisco a due casi in particolare: il rigore della Sampdoria, dato e poi rimangiato giustamente, e il fuorigioco di Del Piero sul gol della Juve, che nessuno vede, nessuno protesta, poi si guarda il ralenti, il replay e c'è. La ringrazio. Grazie a lei. Nessuno vede, nessuno protesta, una fava, mi verrebbe da dire, nel senso che il guardaline vede e alza la bandiera immediatamente, punendo una mancanza di riflessi che mi ha molto sorpreso da parte di Del Piero, perché se Del Piero sta fermo dov'è, quello è gol, perché appunto nessuno se n'è accorto, e probabilmente Guardalini non avrebbe alzato la bandiera, ma nel momento in cui lui non solo non fa il passo indietro allontanandosi dalla direzione della palla, per evitare di diventare attivo, ma addirittura lo fa in direzione alla palla, beh, insomma, secondo me commette un errore che non ci si aspetta da un giocatore come Del Piero. Quindi bravissimo l'assistente a cogliere questa cosa. E l'altro, ne ho già parlato ieri, e cioè l'episodio della Moviola, cioè intanto lei dovrebbe sapere più o meno a grandi linee come la penso io sulla Moviola, ma soprattutto alla data di scadenza, cioè oggi è martedì, ma chi se ne frega di quello che ha fatto Rocchi, che secondo me per come ha arbitrato Inter Milan e per come si è riproposto l'altro giorno con questo bel episodietto, insomma, io credo che se anche avesse finito la stagione, ed eventualmente anche la stagione fosse l'ultima, credo che il calcio italiano ci rimetterebbe veramente poco, ma molto molto poco. E sull'altro discorso di Balotelli, sì, mi sembra che lei alla fine sia arrivato alla valenza in più che questa convocazione avrebbe come significato, e che sarebbe secondo me un tentativo che si giustificherebbe da solo, al di là dell'aspetto tecnico, che peraltro è indispensabile per poter ambire alla nazionale, e mi sembra che da quel punto di vista le carte in regola da parte di Balotelli ci siano. Scrive Daniele da Venezia sulla Domenica Sportiva: domenica è andato in onda il servizio di Genoa Bologna a inizio trasmissione, prima ancora delle immagini del posticipo. Raddoppia Stefano, dice: servizio su Genoa Bologna è andato in onda per primo, non solo, ma il titolo di apertura è stato proprio sul Bologna. Allora voi capite che starsene di qua da questa parte del microfono, no? E perdere un minuto, no? Che poi non è così poco, che coinvolge alcune... Cioè, Biscardi direbbe milioni e milioni e milioni di ascoltatori, no? Per sentire uno che non sa neanche sedersi davanti alla TV quando è ora, e poi però telefona una radio nazionale per protestare, voi capite che ogni tanto è duretta, da queste parti. Sembra ieri. Sembra ieri. 2 marzo 1966. A San Siro il Milan sfida il Chelsea nello spareggio per il passaggio ai quarti di finale della Coppa delle Fiere. I rossoneri avevano vinto per 2-1 all'andata giocata a Milano e perso con lo stesso punteggio a Stamford Bridge. Ma nello spareggio la formazione allenata da Arturo Silvestri non riesce a sfruttare il fattore campo e si fa bloccare sull'1-1. Al termine dei supplementari è la monetina a decidere le sorti della sfida, premiando il Chelsea che già aveva eliminato dalla competizione la Roma. Nell'edizione 65-66 delle Coppe Europee, altre due formazioni italiane avevano ceduto il passo a squadre inglesi. In Coppa delle Fiere, il Torino era stato eliminato dal Leeds, mentre in Coppa delle Coppe la Juventus si era arresa al Liverpool. Provi a chiedere, scrive Roby da Vercelli, ai 20 allenatori di Serie A chi sceglierebbe tra Amauri e Balotelli. Io, a quelli esonerati probabilmente se lo chiedo mi scelgono Amauri, ma io credo che quelli che ci sono e soprattutto quelli che sono un po' davanti penso che sceglierebbero Balotelli, soprattutto me l'auguro per loro. Andrea, chiamato da Roma, buongiorno. Buongiorno, sono Garanzia. Dica. Nel 1990 mi trovavo a Lione dalla frequentata del professor De Giusti, che al suo posto aveva preso il posto del famoso... Andrea, mi perdoni, ma al di là del fatto che siamo tornati un pochino tanto indietro, il problema è un problema di ricezione. Allora, adesso noi proviamo a richiamarla, però magari venendo al 2010, insomma, il più presto possibile. Roberto da Bologna, buongiorno. Buongiorno signor Garanzini. Dice. E complimenti per la sua trasmissione. Mi accodo ai complimenti per il garbo con cui la conduce. E poi una premessa, la domenica sportiva, domenica scorsa, ha fatto vedere tutti i servizi. Certo, appunto, ma non è che possiamo, ripeto, non è che possiamo perdere tutta la giornata perché uno non no? Ascolti, io la chiamavo, intanto un breve cenno. Lei aveva letto prima che su Repubblica c'era stato il discorso sulla convocazione di Balotelli che riguardava l'età, il discorso dei giovani, cioè praticamente sto ragazzo deve un po' intristirsi per avere la possibilità di andare in nazionale. Secondo me è già abbastanza triste negli atteggiamenti, forse dovrebbe un po' rallegrarsi e ne saremo contenti tutti, no? Per il modo con cui sì, non ha ascoltato bene la lettura che ho fatto di Crosetti, perché si poneva un problema più generale, diceva che questo evidentemente non è proprio più un paese per giovani, se un 19enne di talento, un nemmeno ventenne di talento, deve comunque mettersi in fila e maturare in attesa di chissà che, quindi era un po' diverso il concetto. Poi però No, la mia, non so se la pensa come me, ma per quanto riguarda Nesta direi che non possiamo prescindere da lui in difesa. Ed è un po' strano il fatto che lui stia rifiutando, si dice per motivi fisici o per altro. Se è vera la notizia che si è sentita un po' girare ieri, nel senso che Nesta ha un po' di problemi nell'entrare in un gruppo di cui non ha fatto parte per anni, non ha fatto le qualificazioni o altro, se questo è vero, mi chiedo se non sarebbe il caso, magari da parte dei giocatori della nazionale, alcuni magari quelli più importanti, fare una specie di lanciare un messaggio in cui un eventuale suo ritorno sarebbe ben accolto. Tutto qua. Boh, io non lo so perché debba partire una lettera di benvenuto per Nesta e lasciar fuori invece quell'altro che non lo so, può darsi, potrebbe forse essere una buona idea. Io rispetterei comunque sempre la volontà del giocatore, cioè così come la si rispetta, la si è rispettata per Maldini, no? per tanti anni in cui avrebbe potuto essere ancora utile, e la si rispetti pure per Nesta, vorrà dire che io credo che Nesta sia Nesta sano, Nesta quando sta bene ed è disponibile è da una lunga serie di anni il miglior difensore italiano in assoluto, appunto da quando è tramontata Baldini e la grande generazione del Milan, però poi alla fine in Germania 2006 si è vinto anche nonostante l'assenza di Nesta, anzi si è vinto a un certo punto addirittura proprio perché entrò uno al posto di Nesta, quindi vede che il calcio poi non essendo una scienza esatta può fare a meno di tutti, insomma. Andrea da Roma, buongiorno. Riproviamo. Sì. Dunque, no, volevo semplicemente riferire che ebbi modo di entrare a contatto del caso del calciatore Zago, che venne a Lione a farsi operare. Sì. Venne operato da De Jour, che a sua sì. volta aveva preso, il professor De Jour, che a sua volta aveva preso il posto del famoso Tria, sì. che aveva operato a Rocca, non so se lo ricordo. Sì. Però Zago non aveva una frattura, ma aveva subito una lesione del legamento crociato posteriore. Del ginocchio, si era ricaduto male, infatti, prima Fabio Tavelli ha parlato di Zago per dire di una carriera troncata prematuramente, nel senso che Alvise Zago era molto... Era molto giovane, ma certamente non era questo frutto di uno scontro o di una frattura, come era accaduto invece per gli altri giocatori. Lui ha avuto uno scontro aereo con Victor, ricordo benissimo l'azione, e poi ricadendo, purtroppo per lui era caduto male sul ginocchio e si era rotto i legamenti. Quindi giustamente lei ci ha ricordato quanto fosse diversa la dinamica. Piero, provincia di Firenze, buongiorno. Sì, buongiorno, complimenti. Su Del Piero una battuta, sono tipo su Juventino, purtroppo quello lì sa cos'è Garanzia nell'anagrafe, 180 anni fa mi sarebbe scansato un tempo. Sì, ma su Lippi, certo. Su Lippi ma non so, forse io sono Juventino toscano, quindi si figuri Lippi un però su Stano e su Panucci, se non sbaglio, avuto ragione tu. Secondo. Io non la metterei su un discorso di razzismo, perché sennò ragazzi veramente, cioè qui stiamo parlando di calcio, Balotelli non si discute, perché come giocatore non si discute, però due cose e poi chiudo. Primo, lei che è un intenditore e che capisce il suo ruolo, il ruolo preciso, come lo vedrebbe lei? Quinto o sesto attaccante, come scrive Sconcerti, cioè uno da mettere in rosa, io lo metterei in rosa prima e in riga poi, soprattutto in riga. Attenzione Giovanotto, perché qui non c'è nessuno, devi o ti comporti da adulto oppure la porta è quella sin da domani mattina. Poi una volta che è in riga io lo terrei in rosa e lo metterei in panchina, tendenzialmente, se poi si merita al posto di titolare meglio ancora, metterei in panchina, e questo se entra come è entrato nelle ultime occasioni e se piglia la porta come la sta pigliando con questa frequenza da tutte le istanze, poi vediamo. Pietro Lacorte in regia, Flavio Suardi e Franco Piantanini in redazione, buon pomeriggio a tutti.